Bene, allora buonasera a tutte le signore e signori. Siamo qui per la presentazione del libro di Ettore Frangipane, Il burracco incrociato e Laura Rosata di Rosaura. Scusate il gioco di parole. Io ho qui anche delle carte da gioco, devo dire che sul gioco sono più una schiappa perché non mi ricordo mai le regole e guardi, solo la briscola è stato un dramma in riuscire a impararla, è come con le barzellette, proprio non ce la faccio. Comunque ringrazio Ettore Frangipane perché ha una produzione veramente vastissima e un campo di interesse enorme e riesce sempre a scovare un argomento, un tema per catturare l'attenzione e soprattutto per aiutare la biblioteca a quello che è un compito a cui teniamo tantissimo, che è quello di promuovere la lettura, di incuriosire, di far conoscere dei temi nuovi, soprattutto di leggere. E questo c'entra forse anche con il burracco, no? Che è un'attività, il gioco delle carte, è un'attività interessante che può essere di aiuto anche per relazionarsi con altre persone e mantenersi attivi. Allora, alcuni appuntamenti della biblioteca, perché questo lo faccio sempre, ed è quello di dopodomani, dove abbiamo P come Peter, il mistero del barboncino con Cristina Heller e Italo Ghirigato, associazione scrittori di Bolzano, che verranno qui e ci presenteranno un nuovo libro. Lunedì 27 febbraio alle ore 17:30, ecco, abbiamo anticipato rispetto al pre-Covid, ci muoviamo su una fascia oraria un pochino anticipata per tanti motivi, non solo organizzativi ma anche di carattere di risparmio energetico. Il testamento di Joseph Mariotti con Leonardo Coletti è un libro che verrà presentato lunedì 27 febbraio, sempre in questa sala, dedicato all'arte e alla connessione con la fisica. Quindi è un tema molto interessante che Coletti, professore di matematica e di fisica al Liceo Classico di Bolzano, aveva già a suo tempo investigato in un altro libro che aveva avuto un grande successo e che questa volta tornerà a ripresentarci in una veste nuova. 27 febbraio alle ore 17:30. Poi due appuntamenti a cui teniamo molto, che sono i mercoledì dei gruppi letterari, dei gruppi di lettura. Uno è dedicato alla narrativa locale, si intitola Localmente, può partecipare chi ha piacere. Sono dei gruppi dove le persone leggono lo stesso libro e poi discutono sul tema. La narrativa è quella locale, abbiamo un gruppo molto attivo, molto vivace, ma è aperto a chiunque abbia interesse e piacere di scoprire o essere curioso, insomma, di quello che succede nella biblioteca. E un altro invece è un esperimento che ha una certa, diciamo, attività, è un po' un'iniziativa tutta nostra, che si intitola invece Tutti Saggi, e è un gruppo di lettura dedicato però alle scienze e a materie scientifiche. Quindi lì il contributo è un attimo diverso, però sempre aperto a tutti, non è un gruppo complesso, però è piacevole perché si affrontano tanti temi, dal riciclo dei rifiuti al ciclo di vita degli oggetti all'inquinamento, insomma anche a tanti temi legati chiaramente all'agenda 2030, come per esempio la sostenibilità anche sociale, le diseguaglianze e via dicendo, insomma tutti i temi e obiettivi e target che dobbiamo raggiungere nel giro di 15 anni, anzi anche meno. Bene, a questo punto io vi lascio in compagnia dei nostri ospiti. Ringrazio tantissimo Maria Pia Zanetti, che anche questa volta si è presa a dare la voce professionalmente al libro di Ettore Frangipane, che questa sera ritroveremo come romanziere, come narratore e non come storico. Lo ringrazio, gli faccio tanti complimenti perché è di una vivacità e di una curiosità intellettuale veramente straordinaria. Grazie. Grazie e a voi, buona serata. Mi piace l'idea della curiosità intellettuale. Grazie, grazie direttrice. Dunque, io veramente avrei pensato che oggi avrei avuto un pubblico più consistente. Mi è capitato la settimana scorsa, eravamo al wrestling, mi sono trovato davanti veramente ad un pubblico straripante. C'è da dire una cosa però, che è una questione anche di grandezza di sala. Alla Trevi qua si sprecano tutto questo spazio, che cos'è? Insomma, se la sala è più piccola, naturalmente pare che ci sia anche più gente. Comunque ho visto con vero piacere che ci sono amici miei. La qualcosa mi piace, amici miei e di mia moglie, giocatori di Burraco, che spereranno di sentir parlare di Burraco, e di Burraco si parlerà soltanto di sfuggita, perché l'argomento è principe, è praticamente un altro, anche se da lì trae la sua origine, il suo spunto, e parliamo, e quindi non ci saranno immagini, ma però ci sarà alla fine una piccola sorpresa, e ve lo dico subito, perché come ho già spiegato, sarà piuttosto verbosa la mia conferenza, le mie enunciazioni, per cui alla fine vi darò un colpo di frusta musicale, in maniera che se volete potete anche tutti insieme ballare, cosa che non avverrà naturalmente, ma che è nei miei auspici. Dunque, Burraco, numeri, quando è nato il gioco delle carte, non lo so veramente, non mi sono neanche preso la cura di indagare in merito, e credo di sapere comunque che origine, a parte il fatto che le carte al massimo possono essere partite ai tempi degli egiziani, quando c'erano i papiri, ma non credo che con i papiri avrebbero mai fatto tante carte quante sono le 50 di un altro regolare, no? E quindi io ritengo che sia stato il gioco del domino, quello della partenza, con delle palline, tante palline che qui avevano a tanti numeri. Oltretutto c'è da dire però una cosa, che i romani quanto a numeri hanno messo piuttosto maluccio. Una righetta, due righette, tre righette, quattro righette, no, sembrava un po' troppo, facciamo 5 righette meno una. Allora, siccome 5 è una V, allora una righetta, due righette, tre. Una meno 5 che fa 4, 5 che è una V, poi 6 più una righetta, più due righette, più tre righette, insomma un casino. Tant'è vero che non riuscivano a fare i conti per benino, insomma. Come fate a fare una somma con tutta questa storia di righette? Andate per esempio lungo le passeggiate del Talver, dalla parte di Tyler, a mezza via c'è quella villa con una scheggia esposta, una scheggia di bomba, la quale bomba distrusse la villa. Adesso hanno rimesso in piedi la villa, però hanno fatto rivivere la bomba inchiodandola sul muro, e c'è una bella scritta in latino che rievoca data, giorno, ora e tutte queste cose qua scritte in romano con i numeri romani. Se andate a vedere con un po' di con le conoscenze vedi che noi abbiamo, è un gran casino, non hanno capito niente, e allora capite la ragione per la quale i romani non hanno fatto strada sotto il profilo dei numeri, l'hanno fatto invece gli arabi, che poi non sono gli arabi, perché i numeri degli arabi sono partiti dall'India. Sono gli indiani che hanno inventato quei numeri, che poi sono stati contrabbandati come numeri arabi, un po' perché gli arabi a raccontare la cosa e imbrogliare un po' le carte in tavola sono sempre bravissimi, no? Un po' perché noi abbiamo presi questi numeri dall'esperienza dell'arabo, che l'ha presa dall'esperienza dell'indiano. Gli arabi hanno aggiunto un qualche cosa che nessuno aveva pensato di utilizzare prima, il numero zero. Pensate a una cosa strana, no? Lo zero, quando ero bambino io, una volta mi ricordo ero piuttosto bravo nel fare le cosette, e facevo le elementari, ho fatto un cubo di cartone ritagliato, cucito, incollato, era veramente fatto benino per essere un ragazzo di 9 anni, forse 10. Solo che l'ho portato e non ho neanche lodato granché, solo per la buona intenzione, perché il cubo non era di 10 cm, ma di 9, perché io con il mio decimetro, con il misuratore, non ho calcolato il numero 0 e sono arrivato dall'1 al 9 basta. Ecco, questo qui è una cosa che non c'entrava niente con il burracco, neanche con i discorsi che vi volevo fare, ma ogni tanto mi capita con cervello di andare via per conto suo, e ho letto che abbiamo in testa miliardi di neuroni collegati tra di loro da miliardi di sinapsi. Come fanno tutte queste cose a stare qui dentro? È una cosa, e poi parleremo di miliardi, adesso incomincerò tra breve, proprio nel senso dell'infinita, dell'infinità, dell'immensità delle cose, che hanno un loro spazio anche qua. Dunque, si inventano le carte partendo evidentemente dal gioco del domino, accostando i tasselli del domino. A un certo punto si inventa la carta, si fanno le carte, e a ogni carta si attribuisce un numero e un personaggio. Il personaggio più importante qual era in passato? Il re. Chi è il re? È Cesare. Il primo re fu Cesare, l'imperatore, il Kaiser. Cesare, che si pronunciava Caesar, non Cesare, Caesar. Donde Kaiser? Perché la C, col passare degli anni, si è ammorbidita in K. È curioso questo fatto, e quando ero ragazzo che andavo all'università, ho studiato una cosetta curiosa, cioè per ricostruire la dizione, la parlata del vero latino, si deve ricorrere oggi come oggi al tedesco. Strano a dirsi, no? Dovete sapere che mentre la lingua si evolveva a Roma, e diciamo anche sulla penisola, lungo la penisola nostra, e la C si ammorbidiva sempre di più, la K in una C, da Caesar Cesar, i tedeschi invece, che sono più legati alle tradizioni in Germania, acquisendo la lingua latina attraverso la Chiesa, cosa fecero? Acquisirono anche le parole, e per cui il sostantivo cella, la cella del monaco, loro la chiamavano quella, non cella, donde keller. Vedete, questo vedere, questo indagare a pari tempo dall'una e dall'altra parte come si evolveva la lettura, ti fa anche capire, fa capire come da veramente Caesar si pronunciava Caesar in Germania, chiamiamola Germania anche se non era ancora tale, Cella invece in Italia, diciamo Italia, anche se in Italia non c'era ancora praticamente, e quindi da Cesare è nato il re Kaiser, da Kaiser è nato poi lo zar viene da Cesare. Andando più avanti, poi cosa curiosa, deriva anche Shah, che è lo Shah di Persia, originariamente Shah, donde scacco, il gioco degli scacchi è un gioco che ha preso il nome da Giulio Cesare, se vogliamo. Mat vuol dire uccidere, è una radice indoeuropea, mat, il matador, matar, la mattanza. È un termine che è collegato a Aksah, fa uscire la definizione scacco matto. vedete che le cose sono strane, sono stravaganti. Ecco, mi è venuto voglia di raccontarvela, è già passata mezz'ora, vi saluto tutte e ce ne andiamo, sono stato troppo lungo, abbiate pazienza. Bene, allora io adesso cosa dico in questo libro? Incominciamo col dire che racconto di due coppie, i Ferrari e i Rossi, che sono appassionati di burraco, che il quale burraco a sua volta deriva dalla rapina del ramino che ha dato vita alla canasta, che ha dato vita al pinacolo, che ha dato vita al burraco e via dicendo. E siamo giunti così a parlare di questo gioco in cui c'è un re, la regina e via dicendo. E queste coppie si incontrano, ci sono molti burracchisti qua tra di noi, ci saranno venuti per sentire parlare di burraco, io parlo di queste cose invece che spero possano non annoiarvi del tutto, e si incontrano, come fanno molte famiglie, facevano anche noi molte coppie, in caso dell'uno o dell'altro si scambiano le coppie e si fanno dei piccoli tornei, si fanno dei tornei anche nei bar, nei ristoranti, eccetera, voi lo sapete, e io a questo punto invito il microfono a Maria Pia Zanetti, che vi legge le prime pagine del mio libro. Entriamo subito, si è ammosciato il microfono, faccio questo effetto. Oddio. Si è abbassato? Si è abbassato il microfono, vediamo. Abbiamo un tecnico. Ecco qui. Risolto il problema. Ecco. Entriamo quindi nella temperie. Il tavolo è già preparato. Il panno verde a coprirlo, i due mazzi di carte distribuiti a ventaglio, quelle dal dorso blu e le altre dal dorso rosso, compresi i quattro jolly. Sul tavolino accanto il quadernetto sul quale trascrivere i punteggi. La matita, il foglietto per i calcoli. Nell'intervallo il tavolino avrebbe ospitato anche le tazzine per il tè e i biscotti. Suona alla porta ed entrano i Ferrari, le solite cordialità, con Giorgio che bacia Grazia sulle guance, solo uno sfiorar di labbra, e le labbra di Mauro che sfiorano appena le guance di Rosaura, rinnovato sfiorar di labbra. E le labbra tra i due uomini, invece, scusate, una stretta di mano, un incontrarsi di sguardi. Tutto bene? Avete trovato parcheggio facilmente? Le possibili varianti alle poche parole introduttive possono vertere da una stagione all'altra sul tanto caldo, sul tanto freddo o poco più in là. Poi Rossi e Ferrari, trascurando altri preamboli, al massimo un accenno alla salute, prendono i propri posti, quelli di sempre, se li sarebbero scambiati incrociandoli nelle due fasi successive del gioco. Mani impazienti raccolgono le carte della prima smazzata e le aprono a ventaglio in bell'ordine. Mauro, una carta per volta, lentamente, e lentamente le mette al loro posto nella mano sinistra. Sua moglie, Grazia, raccoglie il mazzo intero e lo apre a ventaglio, passando poi a sistemare le sue carte ai rispettivi posti, secondo l'ordine tattico che preferisce. Giorgio il mazzo lo apre, lo scompagina, lo riordina, lo richiude, si guarda in giro. Sua moglie Rosaura, anche lei come il marito, al solito sbuffa, deve annunciare subito che la sfortuna la perseguita e anche stavolta sarà così, tutto un lamentarsi perché non vede matte né pinelle e invece gli altri. Le matte sarebbero i jolly, le pinelle invece i due, definizioni risalenti ai tempi della canasta che aveva soppiantato il ramino e sarebbe stata soppiantata a sua volta dal pinnacolo, padre del burraco. Origine? Sud America, dice qualcuno, ma sarà poi vero. Rosaura termina di lamentarsi. Tanto gli altri non abboccano più, lasciano pazientemente che dica. E scendono le prime combinazioni. Tre re. Ma non è un peccato bruciarli così al primo giro? Forse ne ha ancora uno in mano. Vediamo come risponderà la sua compagna. Belli comunque i re delle carte francesi, con quei baffetti neri rivolti all'insù, i capelli a boccoloni. E il primo jolly lo cala Rosaura, che lamentava brutte carte. L'ha infilato in una serie di quattro picche che prelude ad un possibile burraco, sempre che lei e il suo compagno riescano a reperire una sesta e una settima picca in scala. Anche Mauro si trova in mano un jolly, allegro, con quel suo volto grasso e tondo, sorridente, sembra l'etichetta dell'olio sasso. E c'è chi durante il gioco, nel disporli sul tavolo, li raddrizza, che non restino a testa in giù, forse per un certo equilibrio estetico, forse per scaramanzia, perché un jolly capovolto potrebbe anche offendersi. Questo è l'inizio. Questo è l'inizio. E poi si gioca a burraco, qui, là, su, giù. Si gioca anche a soldi, perché si mettono da parte i soldi e normalmente nei circoli chi organizza poi fa... bandisce dei premi, si acquista questo o quest'altro, si premia le persone, ma nella solitudine degli appartamenti tra le poche coppie, no, 2+2 di solito, anzi quasi esclusivamente, si mettono a parte, si accantona del denaro, che dopo un po' di tempo, quando avrà raggiunto una certa consistenza, si sfrutterà per qualche cenettina, non pranzo, cena, dopo il burraco, o al posto del burraco, o qua o là, nei ristorantini che più piacciono, dove si parla di burraco, ma anche di altro. Ecco, io immagino adesso, ho immaginato, questi quattro personaggi che sono andati a cena, che vanno a cena, sono saliti verso, diciamo, verso San Genesio, verso il Guncina, non so, la cosa non è localizzata a Bolzano, ma è chiaramente immaginata a Bolzano, perché queste sono le mie montagne, le mie città, i miei paesi, i personaggi che conosco. Ecco, si è giocato e dopo aver giocato, e dopo aver giocato, giocato e ben bevuto, vi ricordate le canzoni? È giunta l'ora di far l'amore. Oppure, oh bella mora, questa è l'ora di far l'amore. E poi c'è la canzone dello spazzacamino. Ecco, io ricordo queste cose con affetto, le ricorderete anche voi. E dopo aver mangiato e benvenuto, gli fa vedere il buco del cammin, naturalmente, e via di questo passo. Beh, adesso saliamo in montagna, cioè usciamo dal ristorante e ci affacciamo sotto uno stellato di paradiso ad ammirare quello che dall'alto si vede. Gli occhi si levano estatici davanti alla lontana curva del cielo nero, vivido di stelle. Uno stellato di paradiso, come scrisse Renato Fucini. Pochi passi in avanti per raggiungere la staccionata, oltre la quale il prato discende. Che meraviglia! Il grande carro! Mauro indica con un braccio che nessuno segue. Le quattro stelle del quadrato sono le quattro ruote, poi a destra c'è il timone, sì, sì, quello. Sono il grande carro, ossia l'orsa maggiore, indica ancora Mauro. E se prendete le ultime due ruote in basso a sinistra e proseguite con una linea retta verso l'alto, trovate la stella polare, che è quella poco più luminosa dell'orsa minore, ossia del piccolo carro. tutta la volta celeste gira attorno alla stella polare, che dall'emisfero sud invece non è visibile. E la Via Lattea? Ma noi siamo nella Via Lattea, alla sua periferia. Le altre stelle che con noi, col nostro sole, formano questa grande nebulosa, sono quella specie di immensa nuvola che taglia il cielo a metà, sopra di noi, vedete? Come una nebbia, e che è fatta di miliardi di stelle, tra le quali c'è il nostro sole. Ci troviamo alla periferia della Via Lattea, comunque ne facciamo parte, ci siamo dentro. Mauro, avverte una leggera, discreta pressione sul suo fianco destro. È Rosaura che gli si accosta, che sia un segnale. Mauro attende. Poi allunga discretamente la mano destra e la rischia delicatamente sull'altro fianco della donna, che non si sottrae. La mano di Mauro, imbarazzato ma anche incuriosito da questa situazione nuova, si spinge allora carezzevole lungo le rotondità di Rosaura, apprezzando la leggerezza della gonna. Gonna, non gli abusati jeans di stoffa rude, poco praticabili, strumento inventato per ammosciare l'eros. E Rosaura insiste e ancora non si sottrae. La gonna è leggera, liscia e compiacente. La Rosaura lascia fare, si direbbe che lo favorisca. E perché si chiama Via Lattea? Cosa c'entra il latte? Qua ci sono di mezzo i greci, i soliti greci, e poi i romani. Raccontavano che mentre Era, ossia Giunone, allattava Eracle, ossia Ercole, una goccia di latte le cadde dal seno e si disperse nel cielo, formando per l'appunto la Via Lattea. Ah, commovente. Il commento di Rosaura è quasi un sussurro e la sua mano destra nel buio si sposta all'indietro su quella di Mauro e vi si appoggia per brevi momenti senza trattenerla, accompagnandola anzi lievemente, mentre Mauro incontra la verticalità della fessura tra le due rotondità e la sfiora dall'alto in basso, dal basso in alto, carezzevole. E qua incomincia naturalmente un qualcosa di diverso, no? E subentra un po', come avete capito, un po' di Eros, ecco. Quel tanto di Eros pudico che io ho pensato di infilare nel romanzo per renderlo più interessante. Ecco, quello che vi voglio dire, sottolineare, vi siete mai accorti di come è bello, come è strano, come è incombente, come è immenso il cielo di notte? Pochi di coloro che vivono nelle città ne hanno un'idea, perché noi purtroppo siamo ossessionati dall'inquinamento luminoso che ci toglie il piacere di alzare gli occhi e vedere il cielo. Dobbiamo uscire dalla città per vedere il cielo. E allora penso a leopardi, per esempio, no? Penso a leopardi che siete mai stati a Recanati. Ecco, vicino al palazzetto dei leopardi, per l'appunto, c'è il colle dell'infinito, ritenuto tale perché si riteneva che là si sedesse Giacomo, questo ragazzo malaticcio, un po' gobbo, sofferente, tutto dedito agli studi, alle sudate carte, no? E si affacciasse sotto il cielo stellato davanti all'infinito. Sempre come? Caro mi fu quest'ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi. Io nel pensiero mi fingo, onde per poco il cuor non si spaura. Vedete, il silenzio che si accompagna all'immensità, allo spazio è siderale, come il vento oto stormir tra queste piante. Io quello infinito silenzio, questo suono, vo confrontando, comparando, mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, la presente viva e il suon di lei è così in questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragarmi dolce in questo mare, mare che dall'idea dell'immensità noi percepiamo l'immenso nel mare, che però è una cosa piccola e circoscritta nel complesso dell'universo, mentre il cielo, le distanze siderali sono quelle che fanno veramente paura. Pensate che quelle che noi riteniamo essere delle stelle spesso non sono assolutamente stelle, sono agglomerati di stelle, sono nebulose. Noi vediamo un puntino luminoso che è un agglomerato di stelle ad una distanza che sono miliardi di anni, e ogni nebulosa anni luce, e ogni nebulosa racchiude in sé miliardi di stelle. È una dimensione enorme, pazzesca, folle, che negli anni nessuno si immaginava, che ci ha portato a considerare chi ha alzato gli occhi dalla terra. Prima si riteneva che la terra, l'universo, che era quello conosciuto allora, le cose avessero una durata, tuttora lo dice la Bibbia, di 5.700 anni, o giù di là, si è calcolato quantomeno. Ci sono voluti anni e anni, perché si capisce attraverso un po' Copernico, poi Galileo Galilei, che la Terra è ben più antica, che l'universo è ben più vasto, che sapete che la luce, per esempio, che noi riteniamo essere di natura elettromagnetica fino a poco tempo fa, si è dimostrato che è invece materica proprio, fatta di fotoni che si dipartono. La luce è ogni immagine, è fatta di fotoni che si spostano e arrivano ad essere percepite dai nostri occhi. Il sole emette raggi che ci mettono dai 9 ai 10 minuti per arrivare sulla Terra, a seconda della posizione del sole nelle ellissi che noi percorriamo. E si è dimostrato che ha una struttura materica, perché si è notato e si è potuto rilevarlo e calcolarlo che un raggio di luce partito dal sole durante una eclissi si lascia influenzare dalla gravità della Luna e si piega, gira leggermente e ci colpisce seguendo una specie di curva. Ecco, sono tutte realtà che assolutamente non potevano essere rivelate dalla Bibbia o cose del genere, e sono state scoperte dall'uomo, dalla ricerca scientifica, dalla scienza. L'uomo ha inventato una cosa che lo ha contrapposto alla divinità. La divinità, secondo le scritture, le sacre scritture, è di là in un altro mondo, iperboreo, ultrasiderale, diciamo così, è sicura delle cose dell'uomo, di questo piccolo uomo che si trova in questo piccolo sistema solare, che si trova in questa piccolissima nebulosa tra tanti altri miliardi di altri, non esiste, non c'è così. E quando l'uomo ha incominciato a guardarsi attorno, a ricorrere al metodo sperimentale, e parlo di Copernico, parlo di Galileo Galilei per l'appunto, si è trovato a dover combattere l'oscurantismo della religione, delle religioni, non voglio dire della Chiesa, delle religioni, che rischiando con ciò su dichiarare il primato della scienza umana sulla tradizione, sulle religioni, di rischiare il rogo, come è capitato a personaggi come per l'appunto Campanella, come Giordano Bruno e roba del genere, e Galileo ha dovuto rinunciare. Galileo ha sviluppato il cannocchiale inventato dagli olandesi, dai navigatori olandesi, che se ne servivano del cannocchiale per poter esaminare le lunghe distanze che li separavano dalle navi. Erano dei navigatori gli olandesi, no? E hanno inventato il cannocchiale. Il cannocchiale è stato perfezionato da Galileo, che l'ha portato a Venezia. È salito sul campanile di San Marco, l'ha puntato contro il cielo e ha scoperto, e non ci credevano i personaggi patrici veneti, il doge stesso che erano con lui, ha constatato che il pianeta più grande, cioè Giove, era circondato all'epoca, lui così aveva visto, da 4 satelliti, cosa che contraddiceva assolutamente ogni verità rivelata dagli scritti, dalle sacre scritture. E l'uomo mi fa pensare a Ulisse, per esempio. Ulisse è stato un gigante, è stato il rappresentante, è tuttora il rappresentante della forza umana, della scienza umana, della voglia di crescere, fatti non foste a vivere come bruti. Bisogna andare al di là di quello che ci vendete, bisogna andare al di là di quello che ci ritiene essere il vero, bisogna indagare, bisogna cercare di capire, e la scienza va avanti così, grazie all'uomo che si è guardato attorno e ha continuato a costruire, a cercare in maniera sofferta anche, e dicevo di Ulisse, pensate, questo guerriero che torna finalmente a casa dopo 10 anni, ha navigato per 10 anni, un po' le tempeste l'hanno sbattuto di là e di qua, un po' è stato lui a volere guardarsi attorno per vedere, e assetato com'era di notizie, di verità, è entrata finalmente nella sua reggia, ha incontrato Penelope e il figlio, e non si è dato pago, perché dopo un po' di tempo ha ritenuto nuovamente di andarsene, di allontanarsi, per sondare ulteriormente l'infinito. Ecco che un altro infinito si presenta alla curiosità di Ulisse, il quale, dopo aver girato il Mediterraneo, si rende conto che non è mai andato e nessuno è mai andato oltre le colonne d'Ercole, e quindi è là che bisogna andare. Aveva ragione, aveva maledettamente ragione, perché al di là c'era l'Atlantico, c'era un oceano, e qualcuno diceva che c'era il Giappone, il Giappango, la Cina, no, c'era qualcosa di diverso, c'era tutto un continente, c'era l'America, ma lui non poteva saperlo e non l'ha mai saputo, perché è stato avversato dagli dèi, è passato le colonne d'Ercole in quell'occasione che lui ha raccolto la sua vecchia ciurma, i suoi vecchi amici, li ha caricati sul legno, su un vecchio legno, è andato ad affrontare l'infinito, al caso di ripetere e tornare su questa parola, finché un giorno, o miracolo, raggiungono, vedono un monte che è una cosa nuova. Secondo Dante, fantasia, era il purgatorio, però Ulisse si rallietra, si rallegra con tutti gli altri suoi amici perché ha visto, ha provato, ha potuto riferire, potrà riferire che c'è qualcosa di vero, di autentico, di concreto al di là dello stretto di Gibilterra. Noi ci allegrammo e posto tornò in pianto che dal novello monte un turbo nacque che percosse dell'Enio il primo canto. Tre volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora era in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sopra noi richiuso. Ecco che torna il mare nella sua, voglio dire, infinitezza. È qualcosa di bah, lasciamo perdere perché adesso mi dilungo un po' troppo. No, possiamo ancora starci. Allora, a questo punto si succedono, accade qualcosa naturalmente, no? E ci manifesta della attrazione tra le coppie incrociate, non ancora incrociate. E così si prospetta la possibilità di lasciare da parte il tavolo verde con la noia che ne può scaturire per accedere a qualcos'altro, alla camera da letto, nella prospettiva di vivere qualcosa di nuovo. Sarà così o non sarà così? E adesso torna da noi la nostra amica, perché si incontreranno gli effetti imprevedibili, del burraco. Giovedì sera dopo cena. L'appuntamento è per le 8:30. Mauro e Giorgio si preparano per salire ciascuno in macchina ed andare a trovare rispettivamente Rosaura e Grazia che li aspettano. Per Mauro, doccia, cambio biancheria e abito sportivo, vale a dire tuta e scarpe da ginnastica. Per Grazia, doccia, accurato lavoro di pettine, trucco un po' pesante ma d'effetto, profumo, intimi sul trasparente e raffinato, addirittura reggi calze e calze scure. In attesa sul pavimento, pantofole aperte con tacco medio ma sottile. Grazia se le infila, indossa una vestaglia semitrasparente a disegni ricamati, usata raramente. Si ammira nello specchio a parete e si volge a Mauro. Apre la vestaglia ed esce in un malizioso: ti piaccio così? Mauro si compiace e le si avvicina. No, signore. Lo allontana scherzosamente Grazia. Devo conservarti per la mia amica Rosaura che ti sta aspettando. Un bacino bacino, lei rimane in camera da letto, poi l'ascensore. Che cosa curiosa! Io guido verso la casa di Giorgio, dove m'attende sua moglie, lui guida verso casa mia, dove l'attende mia moglie. Una situazione paradossale, ma forse non unica. Io ti do una moglie a te, tu mi dai una moglie a me. Quando con vece assidua cadde risorse e già. No, non c'entra. Però dai il senso di due movimenti che si spostano all'unisono per poi scontrarsi. C'è una certa logica nel ritmo di certi versi. La vece assidua. Ci scambiamo le mogli con vece assidua e loro si scambiano i mariti sempre con vece assidua. No, sto sproloquiando. Indubbiamente. Comunque, se potessi immaginare graficamente una carta topografica della città, sarebbe curioso vedere un puntino rosso, la mia macchina, e un puntino blu, la macchina di Giorgio, che in questo momento si stanno muovendo l'uno verso l'altro per incrociarsi e proseguire oltre. E se incrociandosi i due puntini si scontrassero l'uno contro l'altro, uno scontro frontale, il destino crudele ha spezzato due vite, povere donne, le due vedove. Ma niente di tutto questo, ed eccomi arrivato. L'ascensore, il campanello e la porta che si apre subito. Rosaura è là dietro ad attendere. Ciao. Ciao. Mauro sguscia all'interno, un frettoloso bacino bacino, e Rosaura lo precede in salotto. Egli indica il divano, lei si siede su una delle due poltrone. Indossa una tuta da ginnastica, ha i piedi ciabatte infradito, che si sfila per restare a piedi nudi e potersi così raggomitolare senza rischiare di sporcare la bianca stoffa della poltrona. I capelli sono raccolti sulla nuca con un elastico. Niente trucco, ma decisamente scialpa. Il pensiero di Mauro va al festival del sexy kitsch approntato da sua moglie per Giorgio. E allora, eccoci qua. Rosaura si è raccolta in poltrona, accoccolandosi sui suoi stessi piedi, ora in parte nascosti. Le unghie sono al naturale e anche quelle delle mani lo sono. Niente pedicure e manicure. Fanno quasi specie le labbra lasciate al pallore naturale. Ma cosa vuole questa donna? È un cenno di rifiuto? Si rende poco desiderabile per non attrarmi? Che cosa ti ha detto Grazia? E a te cosa ha detto Giorgio? È quasi uno studiarsi prima del confronto. Due contendenti ancora incerti sulla tattica da seguire, in attesa ciascuno che sia l'altro a fare la prima mossa. Non mi ha detto niente, mi ha detto solo ciao. E tu? Boh, stessa cosa. Ci siamo lasciati come se dovessimo andare ciascuno al lavoro. Però Grazia si è messa in gingheri, tutta trasparenze. E ti spiace che non lo abbia fatto anch'io? Beh, un poco. Oh, te l'avevo detto che non dovevi aspettarti un granché. Ed è a questo punto che Rosaura si lascia andare. Mauro odia il pianto, gli danno fastidio le donne che piangono. Si ricorda di sua madre, di quelle poche volte che l'aveva vista piangere, il volto imbruttito, quasi gonfio, rosso, seminascosto nel fazzoletto, i singhiozzi, e lui, bambino, che non sapeva cosa fare, se avvicinarsi o andarsene di là. E ora Rosaura piange di un pianto sommesso, col viso nascosto dietro le mani. Mauro tace, tra l'imbarazzato e l'infastidito. Si alza e le allunga il fazzoletto, chiedendosi se sia pulito abbastanza. Come avete capito, la cosa non va per il giusto verso e per tutti. Mentre una coppia consuma, l'altra no. Rosaura non vuole, non si concede, Mauro si adegua, forse sotto sotto non ci teneva neanche a tutta questa pantomina e sexy, e si adegua peraltro, come stavo dicendo prima. E cosa fa? Come si risolvono le loro serate? Si risolvono in lunghe chiacchierate. Mauro, che è quello che sa tutto sulle stelle, sui miliardi di chilometri, miliardi di anni luce, tutto, passerà le sue serate a raccontare di queste cose, come sto facendo io adesso a voi. Cioè, un po' noiosamente direi io, mentre gli altri due si divertono. E lui si adegua a questa situazione perché, ripeto, sotto sotto non ci stava neanche. voleva che sua moglie si accontentasse di un qualcosa di diverso, perché sua moglie aveva fatto vedere che ci teneva e ha ottenuto quello che voleva, la pace in casa. Bene, tutto questo però a un certo punto finisce il giorno in cui Rosaura fa un annuncio: sono incinta. E a questo punto le cose cambiano moltissimo, direi io, no? E si creerà una situazione stravolgente che non vi voglio anticipare, perché altrimenti non prendete il libro. È un po' come se il mio amico Alberto Sulligi, scrittore di gialli, venisse a raccontare di un suo giallo: l'assassino era Giuseppe. Dopodiché comincia: no, non vale più, perché allora la gente lo dico, no, mai, mai, mai, mai, mai. E allora io non vi dirò cos'è stata la questione. E a questo punto però chiamo in causa, sapete chi? Fabrizio. Chi è Fabrizio? Fabrizio è il bravissimo tecnico che ha organizzato le immagini che avete visto alle mie spalle e che adesso, premendo il bottone giusto, vi fa vedere e sentire la cosa giusta. confesso a mia moglie che non lo sa, si chiama Konkin Garfield, è svedese, è polistrumentista, cioè sa suonare, oltre che cantante, sa suonare benissimo 25 strumenti, e quasi ogni sera viene a trovarmi. Mia moglie è nella stanza accanto, lei non lo sa. Lei dorme. No, lei dorme, felice e beata. Sa perché? Ha voluto letti separati perché evidentemente le davo fastidio, perché io la notte non dormo, questo è il mio problema, no? E allora mi giro, mi agito, vado, ritorno, eccetera. E sento musichetta. La musichetta la sento al telefonino, al cellulare. Ho le mie brave lunghezze, chiamiamole d'onda, non so se siano tali, e ho posizionato, sento anche del serio, ma soprattutto sento le musichette di Kurhild. Dove l'hai scoperta? Eh? Come l'hai scoperta? Vuoi farmi le corna? In separata sede. E sul telefonino anche tu lo puoi vedere, se tu digiti. Ma il nome è così, quello. Girando, e a un certo punto. È stato quasi casuale. Casuale, ci siamo incontrati all'angolo, qui sotto. Formidabile, sì. Come? Formidabile, dico questo. Ma è poco buono. Ma è bellissimo. Ecco, potevo fargli sentire solo la musica anziché rifilarmi tutte le parlate, ma però ho pensato che ho detto cose sotto sotto anche abbastanza tristi e noiose, per cui terminare con un sorriso non fa male. Questa è la mia amante, mia moglie, che è di una bontà infinita, lo sopporta, anche perché sa che non ci sono molte prospettive tra me e la bionda, e quindi il capitolo si chiude. Io continuo così, lei continua. Là, ci vogliamo bene, mi fa delle buonissime cenette e per il resto sbriglio la fantasia. Io sono appassionato di enigmi, allora io leggerei in questa copertina un enigma. Quando hai detto della, io non ho letto ancora il romanzo, quando hai detto della donna che rimane incinta e quindi lì c'è, sarà il mistero. Allora io mi sono chiesto, ma dopo il re e la donna, che sia il fante quello che gioca un ruolo di questo genere, è un indizio che invece no. No, però vedo che sei un po' detective, no, la cosa è sorprendente e si cade è ironico grottesco, perché io ho detto che gli elementi di questo mio libro sono un erotismo molto soffuso e poi c'è il grottesco dovuto a una ironia che sperimenterete se leggerete il libro, ecco. Quindi il fante non c'entra. Il fante non c'entra. Ti sarebbe piaciuto. Grazie di essere venuti, ragazzi. Buonasera.